la prima mela, la primavera. Ehi, è Siroblio, è la mia vita sbilenca che mi piace così, che mi piace così, che mi piace così. Yeah, yeah, yeah, yeah, Siroblio, yeah, yeah. Noi siamo cosmonauti, prodotti artigianali. Non siamo mercenari bombardati a fusi orari, ma siamo partigiani. Abbiamo intermediari perché soli non è meglio che mal accompagnati, se gli amici sono diventati come parallele. Si vedono soltanto quando succhiano il tuo miele. Il cuore delle donne fermo al tempo delle mele. Fanno giochi con le lingue sulla torre di Babele. Non ci si vede chiaro, io faccio l'antiquario. Meglio essere attaccato che passare inosservato. Lupo solitario come un ladro di autoradio, sono come un pesce in bella vista nell'acquario. Allora io divento il mio protagonista, mal accompagnato dagli spettatori in fissa. Stupore, meraviglia, metto a ferro e fuoco la mia vita come i francesi alla Bastiglia. Ridi che è gratis, ridi che è gratis, soli non è meglio che mal accompagnati. Ridi che è gratis, ridi che è gratis, soli non è meglio che mal accompagnati. Tira su le mani, tira su le mani. Che mal accompagnati, abbiamo tanti cani nei centri sociali, abbiamo ancora sogni in bicicletta nei mercati, viviamo di baratti, siamo treni pendolari sui binari dei paesi, come capitani, la mia casa, la tua casa, siamo sempre in buone mani, non siamo soggiogati, rapinati dal silenzio, perché siamo in mille, bevuti con l'assenzio, c'è folla intorno a te come fossi in uno stadio, gli amici che possiedi stanno ai piedi del tuo podio, per farti compagnia devi accendere la radio. Diventi muto, diventi un pesce come Glauco. Io vado in ogni bar e non conosco mai nessuno. Conosco un camionista, lo conosco da un minuto. Diventa mio fratello anche se era sconosciuto. Io mal accompagnato, confidente di un cornuto. Ridi che è gratis, ridi che è gratis, soli non è meglio che mal accompagnati. Ridi che è gratis, ridi che è gratis, soli non è meglio che mal accompagnati. Tira su le mani, tira su le mani, soli non è meglio. Tuo basista, mal accompagnato dalle spie, regista, mal accompagnato nelle vie, ballista, anticonformista, sono il testimone delle libere follie. Tutta la mia vita sono i turni che non fai, mal accompagnato calendari che non sai, mal accompagnato ferroviere dai miei guai, mal accompagnato da puttane buon gustai. Cammino nelle piazze senza meta con gli auricolari, nella mia vita io non seguo formulari, combatto come tutti gli operai per i salari, mal accompagnato casualmente dai contrari, non faccio la valigia se l'estate si avvicina, non ho vita sociale come a scuola non si bigia, mal accompagnato dalle zecche medicina, mal accompagnato ma nato con la camicia. Ridi che è gratis, ridi che è gratis, soli non è meglio che mal accompagnati. Ridi che è gratis, ridi che è gratis, soli non è meglio che mal accompagnati. Tira su le mani, tira su le mani, soli non è meglio che mal accompagnati. Tira su le mani, tira su le mani, soli non è meglio che mal accompagnati. Ridi che è gratis,